La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Siamo ormai alla fine dell'anno scolastico, ma abbiamo ancora qualche appuntamento con il mondo della scuola. La scuola si racconta, la scuola che esce anche dalle aule e magari va in visita di istruzione. Parliamo di questo, dei vari aspetti connessi all'organizzazione della cosiddetta gita, come si chiamava ai miei tempi, con la vicepreside dell'Istituto Barbarigo di Padova, la professoressa Federica Rigobello. Allora, la nostra scuola per tradizione ha deciso che le visite di istruzione, parliamo di scuola media superiore, perché per la media inferiore il discorso è diverso, ha deciso che per il primo anno verrà fatta una visita di istruzione di un giorno con una meta definita dal docente e che sia una meta di interesse legato anche allo studio che si fa il primo anno, per cui può essere una città d'arte, può essere una visita archeologica, dipende anche appunto dall'indirizzo di studi, perché nella nostra scuola abbiamo classico, scientifico e DTE. Dal secondo e terzo anno, fino all'anno scorso, si faceva una visita di 2 giorni, 3 se c'era da raggiungere qualche meta particolare, che so, Genova, il Festival della Scienza. Da quest'anno invece, il terzo anno, noi proponiamo ai nostri ragazzi lo scambio con Norvegia, Olanda, Svezia, Germania, quest'anno è stato fatto pure, a volte anche Spagna, per cui c'è lo scambio va a sostituire sostanzialmente la visita di istruzione. Il quinto anno è l'anno del viaggio all'estero, la visita in una capitale europea. Anche qui solitamente la decisione è presa dal docente che fa la sua proposta in collegio docenti e in consiglio di classe, anche per verificare quanti docenti sono disponibili. Noi sappiamo che queste visite di istruzione comportano responsabilità enorme per gli insegnanti e la nostra responsabilità è di 24 ore su 24. Per quanto si facciano firmare liberatorie ai genitori, per quanto si istruiscano i ragazzi in un certo modo, la difficoltà di gestire i ragazzi, magari 40-50 ragazzi, per 4 giorni è veramente enorme. E noi come scuola, sono proprio reduci adesso da un collegio docenti, abbiamo deciso di creare proprio una griglia di valutazione comportamentale per quanto riguarda le visite di istruzione in generale di tutto l'istituto e poi di chiedere una collaborazione scritta, firmata, da parte dei genitori. Ecco perché la visita di istruzione fa parte del percorso scolastico, quindi non si è in vacanza, no? Come magari qualche studente, insomma, anch'io ai miei tempi si intendeva un po' di tempo di rilassamento in più, invece è come essere in aula. Allora, sì, bisogna distinguere un po' anche dalla quantità di giorni in cui la visita viene effettuata. Io ho presente adesso l'ultima visita che ho fatto l'anno scorso, abbiamo portato una terza classico a Madrid, destinazione scelta da me e dal collega che è venuto con me, abbiamo fatto un percorso molto strutturato dal punto di vista artistico e storico. Il percorso prevedeva un'alzataccia la mattina sempre alle 7 o prima delle 7 e si finiva la sera all'ora di cena. Poi ci deve essere anche il momento di aggregazione ludica, se vogliamo, dopo tutta questa spacchinata e questa attenzione richiesta ai ragazzi, per cui li si porta fuori e si sta sempre insieme. Ecco, una cosa che io dico sempre anche ai miei colleghi più giovani: evitate di portare i ragazzi alle 11 in albergo. La cosa migliore è stare con loro il più possibile. Io personalmente sto con loro anche fino alle 3 di notte perché non soffro il sonno, però quando ritorno dopo 4-5 giorni è chiaro che c'è bisogno di recuperare, non tutti riescono a fare a restare svegli la notte fino a tardi. Il problema è la notte con i ragazzi, perché la notte per loro è vista come un momento in cui possono sentirsi liberi dagli sguardi degli insegnanti e questo è l'errore gravissimo che si compie ed è anche il motivo per cui tanti insegnanti decidono di non aderire, di non proporsi per portare i ragazzi in visita di istruzione. insomma, si perde comunque un'occasione educativa, questo dal punto di vista dei Sì, ragazzi, no? assolutamente, perché la vita istruzione va vista senz'altro sotto l'aspetto prettamente culturale. Direi che quello, dal mio punto di vista, è il primo, per cui le mete vengono scelte secondo determinati criteri. Ho presente quest'anno Trieste, Ciclotone, cioè ci sono delle mete che hanno un'offerta straordinaria dal punto di vista storico, dal punto di vista scientifico, però è altrettanto vero che ci sono dei momenti in cui i docenti non hanno la gestione completa. È vero anche che è necessaria la vita di istruzione dal mio punto di vista proprio come momento di aggregazione dei ragazzi e per noi insegnanti vedere i ragazzi in un contesto che è diverso dall'aula scolastica ci dà veramente la percezione di quelli che sono comportamenti magari anomali che in classe non notiamo, ragazzi che ad esempio stanno per conto loro, che durante la visita istruzione sono sempre attaccati al cellulare, quindi hanno difficoltà a socializzare. Ci danno i docenti insomma un'apertura a 360 gradi su quelli che sono i ragazzi per i quali stiamo lavorando, che stiamo educando. E direi che anche questo è un aspetto molto importante. Poi è chiaro che la visita istruzione, quando viene organizzata, deve tener conto di determinati criteri, di determinati costi, per cui si fa una ricerca anche tra le varie possibilità che ci vengono offerte e la nostra scuola, ad esempio, cerca di colmare, nel caso di ragazzi la cui famiglia non riesce a reperire quella che è la cifra necessaria, cerchiamo di colmare o la scuola o altri genitori o sponsor per fare in modo che tutti possano partecipare, perché la vista è tutto in un senso se tutti possono partecipare. Grazie alla professoressa Federica Rigobello, vicepreside dell'Istituto Barbarigo di Padova. Buon lavoro per queste ultime impegnative settimane di scuola e l'appuntamento con questa rubrica è fra 15 giorni. La scuola si racconta in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.